giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto di Giulia Bravo, l'aviere di stanza nella base USAF di Aviano, per il reato di omicidio stradale. Confermata anche la misura degli arresti domiciliari, giovedì, i funerali di Giovanni Zanier. La nostra è una condanna senza fine, la soldatessa vada in carcere e non esca più, sono le parole della mamma di Giovanni Zanier, travolto e ucciso a Porcia dalla macchina guidata dalla giovane donna. Cresce il dibattito sul rischio che il processo alla soldatessa americana finisca negli Stati Uniti, come è avvenuto ad esempio per la tragedia del Cermis. Caro Energia, l'alleanza fra aziende per il rifornimento di gas, puntando su energie alternative come fotovoltaico e biogas, il caso della Roncadine di Biomen. Verso il ritorno a scuola, via le misure anticontagio dal 1 settembre, la CISL scuola, mai più DAD negli istituti, si torni a lavorare con serenità. Il comitato degli utenti presenta il progetto della nuova piscina terapeutica di Trieste. Per ricostruirla ci vorranno almeno 20 milioni. A dicembre i lavori di demolizione della vecchia struttura dissequestrata da 8 mesi. Sversamento di gasolio in mare sulla spiaggia di Marina Iulia, la fuoriuscita durante il rifornimento di una nave, bagni vietati fino alle 10 di stamattina, l'ordinanza però potrebbe essere prorogabile. 6 mesi fa, all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'impegno incessante dell'Associazione Ucraina Friuli per il sostegno dei connazionali in fuga dalla guerra. Turismo in crescita a Gorizia, la città riesce a sfruttare il suo ruolo di meta storico-culturale alternativa. Ancora una specie aliena, questa volta il pericolo è nel mare. Avvistato nell'area della riserva di Miramare, il pesce scoiattolo. Questo animale, originario dell'Atlantico, potrebbe alterare gli equilibri dell'ecosistema. Una buona giornata da Ludovico Fontana e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima di entrare nel vivo delle notizie, uno sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 21 gradi, il mare è quasi calmo con una temperatura di 24 gradi e mezzo. A Gorizia 18 gradi, a Pordenone 17 e mezzo, a Udine 16, a Tolmezzo 17, a Forni di Sopra 13 gradi, sul Piancavallo 10 gradi e mezzo, a Tarvisio 10, a Sappada 7 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 10, a Lignano 26 gradi e 5 decimi, a Grado 26, la temperatura del mare è di 24 gradi e mezzo. Passiamo alle previsioni. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione. Al mattino sulla costa soffierà burino, specie a Trieste, mentre nel pomeriggio prevarrà vento di brezza o moderato da ovest. In apertura dunque la decisione del GIP di Pordenone, che ieri nell'udienza di convalida dell'arresto ha confermato gli arresti domiciliari per Giulia Bravo, la soldatessa americana di 20 anni che ha travolto, ucciso mentre guidava ubriaca, il 15enne Giovanni Zanier. «Sono distrutta, mi spiace per il dolore che ho provocato alla famiglia», sono le parole pronunciate in inglese davanti al GIP. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti, ha confermato gli arresti domiciliari presso la base USAF di Aviano per Giulia Bravo, la soldatessa americana indagata per il reato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato d'ebbrezza. Intorno alle 13.30 la giovane texana ha fatto il suo ingresso nell'aula al primo piano del Tribunale di Pordenone, dove non sono state ammesse le telecamere. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha chiesto di poter lasciare dichiarazioni spontanee soltanto per porgere le scuse ai genitori e al fratello della vittima. «Sono distrutto dal dispiacere», ha detto, «mi scuso con tutti per il dolore che ho causato». L'avvocato difensore Aldo Masserut. La linea difensiva la stabiliremo nel proseguo. So che non è stata fatta l'autopsia, mentre sarà conferito un incarico a un consulente della procura, dove avremo possibilità anche noi di partecipare con un nostro consulente per la ricostruzione della dinamica dell'evento, e molto probabilmente ci sarà anche la nomina di un consulente esperto in tossicologia per determinare l'effettivo tasso alcolemico. L'avvocato della famiglia, Fabio Gasparini. Ci attendiamo a breve la notifica di alcuni atti irripetibili, come ad esempio la ricostruzione cinematica del sinistro, al quale saremo pronti a partecipare con consulenti di nostra fiducia che siano di supporto all'attività di indagine che sta svolgendo la procura. Intanto sono stati fissati i funerali del quindicenne Giovanni Zanier per giovedì pomeriggio alle 16 nella chiesa del Beato Odorico di Pordenone, la parrocchia frequentata dal giovane e dalla famiglia. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Una condanna senza fine, definiscono così la morte del loro figlio e i genitori di Giovanni. Molto dure le parole nei confronti della soldatessa statunitense. Che la signora vada in carcere e non venga più fuori, perché la mia condanna me la porterò finché vivo. Lei non lo so se la condanneranno o no, però la nostra è molto lunga. Finché noi abbiamo vita, la nostra condanna sarà quella. Porteremo questo peso fino alla fine dei nostri giorni, sì, quello sì. La nostra è una vera condanna, quello sì. Noi non ce lo restituisce più nessuno, nostro figlio, e avremo questo dolore per sempre. Chi era Giovanni? Era mio figlio, era una meraviglia di figlio. Dolce, spensierato, un ragazzo di 15 anni che doveva vivere la sua vita. Da domenica la vostra vita è cambiata. Sì, sì, purtroppo sì. Non facciamo altro che piangere, sì. Giovanni era un ragazzo amabile, era proprio... A scuola magari non rendeva tanto, ma noi quando non c'eravamo lui si prendeva cura del fratellino, gli faceva la pasta, gli faceva la bistecca. Lui per gli amici si ammazzava, tra virgolette, non che morisse, però si ammazzava per gli amici e anche per la famiglia, tra virgolette. Però lui dava tutto se stesso anche per aiutare chi aveva bisogno. Piaceva star fuori a lui, con gli amici, andare a dormire a casa di uno, di quello, di quella... Era come un figlio di... Era come uno zingaro. Mi dicevano che andava a dormire a casa di uno, a casa dell'altro. Tutti lo volevano. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Non vi è nessun automatismo, ma nel caso di un'eventuale richiesta all'Italia di cessione di giurisdizione da parte degli Stati Uniti, si procederebbe con un'istruttoria in cui si acquisiscono i pareri della Procura Generale del Ministero degli Esteri, con una valutazione caso per caso affidata al Ministro della Giustizia, anche alla luce degli interessi lesi dal reato e dal danno causato alle persone offese. Lo spiegano fonti del Ministero di Via Arenula, interpellate sul caso della soldatessa americana, aggiungendo che allo Stato comunque non è stata formulata alcuna richiesta. Vi è dunque un potere discrezionale affidato al Ministero, ma esercitato in modo rigoroso. Le stesse fonti ricordano che ci sono precedenti di reati gravi in cui non c'è stata la cessione di giurisdizione quando ci sono state vittime italiane e precedenti di militari ubriachi al volante senza terzi come parti lese, in cui invece c'è stata cessione di giurisdizione. Se dovesse arrivare una richiesta, si acquisiranno quindi i pareri della Procura Generale di Pordenone e del Ministero degli Esteri. Sulla base di questi e delle informazioni che gli uffici giudiziari riterranno di condividere, il Ministro della Giustizia deciderà se accettare o meno l'istanza. Le 7.26, proseguiamo con la cronaca. Un 77enne friulano è stato tratto in salvo allo stremo delle forze, fortemente disidratato ma ancora cosciente, dopo essere stato notato da due passanti disteso sul greto del torrente Chiusaforte. La chiamata è arrivata al NUE 112 poco dopo le 19 di ieri e la SORES ha attivato le stazioni di Cave del Predile, Moggia Udinese, del soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza, che si sono portati sul posto. In tutto una decina i soccorritori intervenuti. L'uomo, che calzava scarponi ed era vestito da escursionista, considerate le sue condizioni, è stato imbarellato e consegnato all'ambulanza. Vietati i bagni a Marina Giulia e Marina Nova, le spiagge del Monfalconese. Il divieto temporaneo è stato diramato dalla Protezione Civile di Monfalcone, stabilito con un'ordinanza firmata dalla sindaca Cisint per sversamento di olio combustibile pesante nel porto. La squadra è intervenuta stendendo le panne antinquinamento. In questi momenti vengono rimossi le alghe e i sassi rimasti contaminati, che saranno stoccati anche a fini di indagine. La chiazza è in prossimità di una nave porta rinfuse che batte bandiera delle isole Marshall, ormeggiata al porto di Monfalcone da sabato mattina. Lo sversamento sarebbe avvenuto in fase di rifornimento della nave. Questa mattina, verificate le condizioni delle acque del litorale, la sindaca Cisint deciderà se prorogare l'ordinanza. Già annunciata la richiesta di risarcimento danni una volta individuato con precisione il responsabile per l'inagibilità del mare e i riflessi sul camping, oltre che per l'impiego straordinario del personale e la pulizia della spiaggia. I partiti hanno depositato in tribunale la lista dei nomi dei candidati per il Friuli Venezia Giulia che concorreranno alle elezioni di Camera e Senato del 25 settembre, in corso le operazioni di verifica della documentazione presentata dalle 21 formazioni politiche. Non è detto che tutte le 21 liste che hanno consegnato alla Corte d'Appello di Trieste la documentazione per partecipare alle elezioni del 25 settembre saranno effettivamente presenti sulla scheda elettorale. L'ufficio elettorale per la Camera e per il Senato del Tribunale ha infatti il compito di verificare la correttezza delle carte presentate domenica e lunedì. L'attenzione è rivolta in particolare alle firme che alcune formazioni politiche hanno dovuto presentare a supporto della candidatura. Le firme devono essere correttamente autenticate secondo quanto stabilito dalla legge. Per la Camera e per il Senato le sottoscrizioni richieste sono 750 in Friuli Venezia Giulia. Diversi partiti hanno invece goduto del diritto di rinunciare alla raccolta. L'esonero delle firme riguarda chi aveva già un gruppo parlamentare o si era presentato alle ultime elezioni politiche ed europee. Anche l'esenzione sarà verificata dalla Corte d'Appello. Eventuali irregolarità sono comunicate alle liste proprio in queste ore. In assemblea pubblica i rappresentanti delle formazioni politiche potranno spiegare la propria posizione davanti ai funzionari del Tribunale. In caso di mancata ammissione, le liste potranno presentare ricorso alla Corte di Cassazione che si esprimerà entro 48 ore. Il passo successivo prevede il sorteggio per stabilire l'ordine dei contrassegni presenti sulla scheda. Se non saranno avanzati ricorsi, l'estrazione si terrà venerdì, altrimenti si dovrà attendere domenica o lunedì per conoscere l'esatta composizione del foglio su quale i cittadini potranno apporre una croce sul simbolo. Non sono previste preferenze perché le liste sono bloccate secondo l'ordine stabilito dai partiti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Con i prezzi di gas ed energia elettrica alle stelle, le aziende si stanno organizzando per attutire il colpo, puntando su energie alternative come fotovoltaico e biogas, ma soprattutto facendo rete tra imprese. Vediamo il caso della Roncadina e della Bioman. Il 23 febbraio, il giorno prima dello scoppio della guerra in Ucraina, alla Roncadin di Meduno, azienda energivora produttrice di pizze surgelate, la bolletta del gas era passata in un mese da 50 a 250 mila euro. Esattamente 6 mesi dopo, la previsione di spesa annuale per il gas viaggia intorno ai 3 milioni e mezzo. E non va meglio con la bolletta dell'elettricità. Tra le strategie c'è quella di aumentare la quota di autoproduzione di fotovoltaico, passando da 1,5 megawatt a 7 megawatt da qui a pochi mesi. Dario Roncadin, amministratore delegato. Fino a un anno fa spendevamo circa 2 milioni e mezzo di energia elettrica, con i prezzi attuali rischiamo di toccare i 10 milioni di euro. Con l'investimento che andremo a fare riusciamo a ridurre appunto questo 30%. Si corre ai ripari dove si può. Riduzione degli sprechi, utilizzo delle tecnologie a induzione, cambio dei motori di macchinari, modifica degli impianti per sfruttare il GPL che costa meno. Per timore di cosa accadrà in inverno, ci si è ingegnati con le aziende vicine che hanno riserve di biogas. Abbiamo attivato un nostro fornitore di Maniago, la Bioman, che in caso di stacco del gas ci aiuterà a appunto fornirci il gas per cercare di rifornirci tramite dei camion che ci porteranno loro. Internamente c'è una persona addetta solo ai progetti di limitazione dei consumi. Altre aziende, come la Magic Pizza, che produce pizze fresche per il Banco Frigo, hanno scelto di consorziarsi con i gruppi d'acquisto di Confindustria per avere una consulenza quotidiana e cercare di spuntare prezzi d'acquisto sostenibili in un mercato così volatile. Karim Kadiri, consulente area energia Confindustria Udine. Il mare dell'energia e delle offerte bisogna saperlo navigare con una direzione precisa e purtroppo spesso mancano le figure, soprattutto nelle piccole aziende, che siano specializzate nella questione energetica. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dal 1 settembre decadranno le ultime misure anticontagio nelle scuole, dalla DAD, la didattica a distanza, al metro di distanza, all'obbligo di mascherina. Ma oltre ai non risolti problemi di personale, gli istituti in Friuli Venezia Giulia sono pronti a questo ritorno alla normalità? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Piccolo, segretaria generale regionale della CISL Scuola. Le scuole sono sempre state pronte sostanzialmente per l'avvio dell'anno scolastico. Questo chiaramente ha comportato un grande sacrificio, una grande responsabilità da parte di dirigenti scolastici e di tutto il personale della scuola. Ricordo che quello che sta per iniziare è il quarto anno scolastico dall'inizio della pandemia e quindi davvero una premessa importante che la scuola ha bisogno di poter riprendere con la massima serenità le attività in presenza, e l'augurio è che possa farlo senza costrizioni e obblighi come quelli che ci sono stati negli ultimi anni. Auspichiamo come CISL Scuola che ci sia una sinergia concreta tra gli enti locali, tra gli uffici scolastici, le autorità sanitarie, senza caricare di incombenze particolarmente gravose, come abbiamo visto invece negli ultimi 3 anni, i dirigenti scolastici e il personale della scuola. Qual è il vostro giudizio sulla DAD? Noi siamo sempre assolutamente stati chiaramente favorevoli alle attività in presenza. Certo, la DAD è stata uno strumento fondamentale, importante per raggiungere tutti le ragazze, i ragazzi, i bambini, le bambine durante il periodo di lockdown, quando erano previste delle restrizioni, delle attività in presenza, ma certamente sostitutiva di quella che è l'attività in presenza. Ecco. Mai più DAD, insomma. Noi veramente, lo dicevo all'inizio, dobbiamo davvero poter avere un anno di attività didattiche in presenza e caratterizzate da serenità. Il Comitato degli Utenti ha presentato il progetto della nuova piscina terapeutica di Trieste. Per ricostruirla ci vorranno almeno 20 milioni. A dicembre i lavori di demolizione della vecchia struttura. Piscina talassoterapica con acqua salata riscaldata, piscina per le malattie neurodegenerative, qui acqua fredda ma profonda, e ancora piscina per attività paralimpica con acqua dolce, infine una vasca riabilitativa. Così al piano terra, al secondo piano, ambulatori per attività sanitaria in convenzione e libera, ma anche palestre attrezzate. È dettagliato, inclusivo ed ambizioso il progetto per la nuova piscina terapeutica di Trieste, già depositato in comune e scritto nero su bianco dal coordinamento cittadino costituito dalle associazioni che per 26 anni hanno goduto della piscina acquamarina di Trieste fino al crollo del tetto avvenuto 3 estati fa. Alla conferenza stampa di presentazione la testimonianza degli utenti. Ha portato a mia figlia dei risultati in termini di autonomia che oggi la portano a guidare la sua macchina, l'ha portata a livello di studio ad una laurea. Credo che sia stato veramente fondamentale. I lavori di demolizione finiranno entro dicembre, poi si costruisce, dice il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, da noi contattato, che non pone problemi di spesa. I soldi ci sono, ripete più volte, l'importante è che le associazioni siano soddisfatte. I 5 milioni di euro che il comune aveva ipotizzato non basteranno di certo, ce ne vorranno, dicono le imprese, almeno 20. Donato Riccesi, imprenditore edile. Il Comune ha richiesto una proposta in finanza di progetto, ora evidentemente sulla parte privata deve avere un suo ritorno nel tempo che, anche se lungo, evidentemente deve rientrare nell'investimento in questi termini pur lunghi. Ora evidentemente rispetto alle richieste emerse oggi questa verifica va fatta. Tra le imprese interessate c'è chi propone il cosiddetto leasing costruendo. Andrea Monticolo, imprenditore edile. Il costruttore costruisce l'edificio e per tutta la durata del finanziamento, cioè la durata del tempo in cui l'ente pubblico ritornerà i soldi all'istituto finanziario, il costruttore dovrà garantire al 100% l'usufruibilità del bene. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'attività delle associazioni di donne e uomini ucraini in regione non si è mai fermata per dare sostegno ai propri connazionali in fuga dalla guerra e a chi è rimasto nel paese. Abbiamo sentito in proposito Victoria Schiba, mediatrice culturale, presidente dell'Associazione Ucraina Friuli. Noi abbiamo censito presso il nostro sportello, che gentilmente ci aveva dato in uso la protezione civile di Udine, dove consegniamo aiuti ai nostri profughi. Abbiamo censito più di 400 famiglie, adesso sono diminuite perché un grande numero di persone sono tornate a casa. Poi non si sa se torneranno, tutti sperano che la situazione migliori, non sappiamo come proseguirà questa situazione. Avete accolto nuove famiglie invece di recente, nelle ultime settimane? No, in ultime settimane no, non abbiamo noi avuto nuovi arrivi, piuttosto le persone che sono tornate a casa. Come associazione, come vi siete organizzati per aiutare la popolazione? Noi abbiamo un punto di raccolta aiuti presso la città Fiera e da lì aiuti vengono spediti in Ucraina, e presso la Protezione Civile di Udine abbiamo un punto di aiuto ai profughi che sono qua sul territorio, così li aiutiamo con vestiari e anche alimentari, che ringrazio, colgo occasione di ringraziare anche Banco Alimentare che ci dà un aiuto. Come è cambiata la vostra vita, la vita degli ucraini che vivevano in Friuli da tanti anni in questi sei mesi? Cambiata tanto questi sei mesi, proprio ci siamo concentrati su questa questione dei profughi, come possiamo aiutare i nostri compaesani. Ovviamente tanto aiuto serve alle persone che sono rimaste in Ucraina, e figli, fratelli, mariti di tante donne che si trovano qua, sono al fronte. E noi ogni giorno leggiamo queste notizie delle persone che vengono uccise perché stanno difendendo la nostra terra. Turismo in crescita a Gorizia. La città ha puntato sulla valorizzazione del ruolo di meta storico culturale alternativa. Cartina geografica sulla tavola da pranzo. Molti viaggiatori europei snobbano la geografia telematica e rimangono affezionati alle vecchie mappe. I flussi turistici stanno portando un po' di ossigeno ai ristoratori goriziani, ed anche se non ci sono ancora dati ufficiali, le prime proiezioni stimano un più 10% rispetto all'estate 2019, cioè prima del Covid. La cucina italiana qui a Gorizia ha una declinazione particolare. Per noi austriaci Grado è la meta principale, ma siamo venuti oggi qui per cambiare. Abbiamo visto i danni fatti dal fuoco più che altro quest'anno come novità. Veniamo dalla Germania, regione Nord Reno-Vestfalia. Il castello purtroppo è chiuso, quindi ora andremo alla Castagnevizza dei Borboni. Siamo una famiglia che arriva da Saramazzoni, nell'Appennino modenese, e siamo venuti a Gorizia più che altro per la passione della storia di uno dei miei figli. Vengo da Genova, stiamo facendo un giro in bicicletta, un tour in bicicletta, e Gorizia, dico la verità, che come ciclabili si può migliorare. Veniamo dall'Olanda e abbiamo inserito Gorizia nel nostro tour italiano perché era stata divisa dopo il 45 ed ora è riunita. Volevamo vedere anche la chiesetta di Santo Spirito, ma è aperta solo alla domenica pomeriggio. E la Confcommercio sta già lavorando per potenziare l'offerta dei pubblici esercizi, il presidente Gianluca Madriz. Sicuramente dobbiamo migliorare quella che è l'accoglienza e l'ospitalità nella città. Non mi riferisco solo al settore alberghiero, ma soprattutto mi riferisco ai pubblici esercizi, ai bar, in particolare alla ristorazione, che deve garantire nei momenti in cui c'è un turismo che sta crescendo come in queste settimane una vera e propria ospitalità. Nei prossimi giorni abbiamo indetto una riunione in Confcommercio per mettere in campo da subito delle soluzioni, non solo nel 2025 Nova Gorizia-Gorizia, ma come riferimento turistico importante nel futuro. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Vive nascosto tutto il giorno per entrare in azione di notte, quando si sposta su letti di sabbia a caccia di granchi e altri piccoli crostacei. È il pesce scoiattolo, una specie aliena per il mar Mediterraneo, cioè estranea all'ambiente, che è stato avvistato per la prima volta nel Golfo di Trieste. Il suo arrivo può essere legato al trasporto marittimo, con gli esemplari che arrivano nascosti nei piccoli spazi delle chiglie delle grandi navi. E non è una buona notizia, ci spiega Saul Ciri, ricercatore dell'area marina protetta di Miramare. In generale le specie che provengono da altri luoghi potrebbero essere dannose per i nostri sistemi, perché comunque creano degli equilibri ecologici ai quali quando arrivano dalle nostre parti non sono abituati. Quindi potrebbero essere dannosi per l'uomo, potrebbero essere dannosi per il sistema, perché magari sono dei grandi predatori, non è il caso del nostro pesce scoiattolo, e potrebbero quindi andare a cambiare gli equilibri che negli anni si sono instaurati nei nostri sistemi come il Golfo di Trieste. E come fare per limitare i danni? Non è facilissimo limitare i danni, molto spesso per quello che riguarda le specie aliene uno dei consigli quando sono specie per esempio commestibili è quella di iniziare ad abituare le persone all'alimentazione con queste specie, è stato fatto per esempio con il granchio blu, mentre è molto complicato fermare l'arrivo di queste specie nuove perché comunque il loro arrivo è legato a fattori come possono essere la presenza di grandi porti e quindi l'arrivo di grandi navi. Non si sa mai per certo da dove arrivino e come arrivino, però diciamo il fatto di vederle in concomitanza a luoghi dove ci sono grandi movimenti di navi, quindi anche grandi spostamenti, ovviamente ci fa propendere per l'idea che questi individui molto spesso arrivino attraverso questi veicoli. Ci ha detto non è un grande predatore, che tipo di pesce è? È un pesce diciamo di piccole dimensioni per come solitamente viene ritrovato, cioè la dimensione media a cui viene trovato varia tra i 20 e i 25 centimetri, la sua dimensione massima è 60 centimetri comunque in natura, è un pesce comunque che si nutre di crostacei, vive di solito nascosto nelle rocce, non è però un grande predatore, quindi non è un super predatore, ecco, per capirci, non è pericolosissimo da quel punto di vista come potrebbe essere invece un pesce serra, che invece è un predatore di altri pesci. In questo caso solo durante la notte, di solito lui migra dalla scogliera nella quale si nasconde e va nelle praterie o nelle zone di sabbia a grufolare per cercare piccoli crostacei, piccoli molluschi dei quali normalmente si nutre. Siamo allo sport, calcio, nuovo acquisto per l'Udinese, si tratta del difensore Hassane Camara, nazionale della Costa d'Avorio, prelevato dal Watford, dove però rimarrà in prestito per tutta la stagione. Intanto dal giudice sportivo arriva la squalifica per 2 giornate per Neuen Perez, espulso durante il match contro la Salernitana per un fallo da dietro ai danni del Granata Mazzocchi. Calcio dilettanti, al via stasera la stagione delle squadre dell'eccellenza con la prima giornata della Coppa Italia di categorie. Le partite sono tutte in programma alle 20. Le 20 partecipanti sono divise in 5 gironi da 4. Al via stasera alle 20 la 41esima edizione della notturna Città di Pordenone, corsa ciclistica giovanile su un percorso di 800 metri che prevede partenza e arrivo in Viale Trento. Le 7.45, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal Messaggero Veneto, edizione di Pordenone. La soldatessa si scusa, polemica sul processo, è il titolo principale. Alla vicenda sono dedicate 3 pagine all'interno, con gli sviluppi delle indagini, il dolore della famiglia e degli amici e il nodo della giurisdizione, con un'analisi dell'ex magistrato di Cassazione, Enrico De Paoli, mentre dal Ministero della Giustizia fanno sapere che non è arrivata alcuna richiesta di cessione di giurisdizione della base di Aviano. Le altre notizie in prima, per quanto riguarda l'economia, dalle cartelle esattoriali ai pignoramenti, l'ennesimo strascico delle quote latte, mentre alle pagine 2 e 3 c'è un approfondimento sul prezzo del gas decuplicato. Per la politica, invece, i malumori nei partiti dopo il deposito delle candidature. L'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo, in prima pagina la fotonotizia dello sversamento di gasolio sulla spiaggia di Marina Giulia, con l'ordinanza della sindaca Cisint che di conseguenza vieta i bagni. Sul caro gas un reportage sugli esercenti goriziani esasperati e disperati alle prese con bollette triplicate. C'è il gelataio che a queste condizioni dice dovrebbe chiedere 4 euro a pallina e il ristoratore che annuncia di questo passo la mia autonomia è di 3-4 mesi al massimo. Se nell'arco di questo breve periodo le cose non dovessero cambiare, sarò costretto a chiudere. Poi un servizio su Palazzo Alvarez destinato ad ospitare la scuola di restauro, il servizio ancora fermo sulla linea marittima Trieste-Grado e la casa sull'Isola d'Oro del maestro della secessione Josef Maria Augenthaler. Nella prima pagina del Piccolo di Trieste una fotonotizia del Molo Audace dal titolo Così sta salendo il mare a Trieste, con l'allarme da tempo lanciato dagli scienziati sull'innalzamento dei mari causato dai cambiamenti climatici. Nel 2100, sostengono, il borgo teresiano sarà sommerso. E poi l'annuncio del sindaco di piazza sul mercato coperto, sulle trattative in corso con un gruppo francese che gestisce 600 negozi specializzati nel fresco alimentare, dalla carne alla frutta, e che ottenendo la concessione della struttura di Via Carducci farebbe così il suo debutto in Italia. Non sarà un supermercato, precisa il primo cittadino, ma sicuramente i prodotti del territorio saranno i protagonisti. E poi l'inchiesta della Procura sul postino che buttava le bollette degli abitanti del rione di Servola e poi un nuovo cedimento in strada del Friuli, dove ora c'è un senso unico alternato. Sulla prima pagina del Friuli del Messaggero Veneto le notizie principali sono due affiancate. La prima è la fotonotizia sull'incidente di Porcia, le scuse della soldatessa e il caso del processo. A destra i rincari dell'energia, gas e aumenti, le aziende rischiano di fermarsi. E poi la morte in un incidente stradale in Carinzia del 42enne di Paolaro Daniele Del Negro. Tra le altre notizie di cronaca richiamate in prima, chiusa forte, un escursionista si era perso, lo hanno trovato dopo 3 giorni, Sedegliano, bucano la rete e fanno razzia di attrezzi e macchinari. In basso un articolo sulla partecipazione del filosofo russo Aleksandr Dugin, la cui figlia è morta nei giorni scorsi in un attentato a Mosca, partecipazione avvenuta ad un convegno al castello di Udine nel 2019. Sul Gazzettino il titolo principale è lo stesso sia per il dorso di Pordenone che per quello del Friuli. La militare USA, chiedo perdono, è questo appunto il titolo. Intanto il generale della base USAF incontra la famiglia, un gesto da padre, dice. La fotonotizia centrale è sulla campagna elettorale, mentre in taglio centrale ci sono due titoli diversi per le due edizioni. Su quella di Pordenone l'inchiesta criptovaluta e vertice fra le due procure per arginare la truffa, circa 6.000 le persone finite nella rete dei finti broker, 100 milioni spariti. Sull'edizione del Friuli, virus West Nile, proteste per la disinfezione disposta al fotofinish, proteste a Pogoletto e Pagnacco. Altre due notizie di sanità sull'azienda Friuli Centrale, la carica dei nuovi dirigenti in ospedale e poi guardia medica turistica, parte la diffida da parte del sindacato SNAMI. Dalla prima pagina del dorso di Pordenone del Gazzettino, multe agli allevatori per le quote latte, rischio chiusure e poi per lo sport calcio il calendario di Serie C tarda, un bene per il Pordenone. Alcuni appuntamenti in programma per oggi. Diverse associazioni ambientaliste della Carnia organizzano un incontro formativo con la popolazione dal titolo Il progetto SIOT dal punto di vista energetico e ambientale, stasera alle 20 a Paluzza in piazza 22 luglio. Intervengono esponenti di Legambiente, del Comitato Tutela Acque del Bacino Montano del Tagliamento, dei comitati Pro Lago, Tre Comuni e Alto Butt. Ultimo appuntamento della rassegna Economia sotto l'ombrellone al chiosco numero 5 di Lignano Pineta. Oggi alle 18.30 si parlerà di opportunità economiche e sociali della Smart City. Tornano dopo 9 anni le nozze carsiche a Monrupino. Alle 19 nella Casa Carsica l'inaugurazione di una festa che proseguirà fino alla celebrazione del matrimonio di domenica, seguendo le tradizionali cerimonie nuziali dell'Ottocento in Carso. Nuovo appuntamento con Vicino Lontano Monte, la versione estiva e montanara del Festival Culturale di Udine. Oggi pomeriggio alle 17.30 la Ciasada Duga di Salars di Ravascletto e in programma la presentazione di Carnia Una Guida, 9 itinerari lenti nelle valli carniche raccontati dallo scrittore e animatore culturale Paolo Patui. Dialogheranno con l'autore, la fotografa Ulderica da Pozzo e Angelo Floramo, medievista, insegnante e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele. L'evento segna anche la chiusura della mostra fotografica di Umberto Candoni, Così vicina, così lontana, che per Vicino Lontano Mont è stata ospitata dal 29 luglio scorso. Il trio Candale in concerto per Carne e Armonie alle 20.30 nella chiesa di San Rocco a Cavazzo Carnico si esibiranno il flautista Giuseppe Nese, il pianista Pierluigi Camiccia e il violoncellista Marco Dal Sas. In programma musiche di Von Weber, Rossini, Mendelssohn e Donizetti. Fa tappa in Val Rosandra la rassegna Art and Taste fra vino e musica. Alla cantina Parovel di San Dorligo della Valle, degustazione guidata e a seguire in concerto le Babette con il loro viaggio nello swing italiano e americano dalle 18.30. All'ex lavatoio di Trieste, in via San Giacomo in Monte, il critico e scrittore Enzo Santese presenta l'incontro interdisciplinare di poesia e arte dal titolo La parola e l'immagine, in cui i versi di 7 poeti dialogheranno con le fotografie di Alexandra Mitakidis alle 18:30. Spettacolo di improvvisazione teatrale a San Giacomo, a Trieste, alle 20:30 in Piazza Puecher, il Playback Theater porta in scena Mi ricordo che. Vi ricordo che Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11:10 il quotidiano appuntamento, un classico della letteratura friulana del secondo novecento ad opera di Don Giuseppe Marchetti, uno dei più grandi prosatori friulani. Alle 11:20 andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. Poi torneremo a parlare di teatro e comunità con Lost in Macondo, uno spettacolo della compagnia del collettivo L'Amalgama, che mette in scena Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. In programma poi il Teatro della Sete a Preone con Racconti raccolti e l'ultimo progetto della compagnia Malmadur. Infine Elena Commessatti intervisterà Danilo D'Olivo, maestro pasticcere e autore di un libro di ricette. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, in regia Mauro Cumin e Mauro Coloni, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Il prossimo giornale radio andrà in onda alle 12:30 e da parte di Ludovico Fontana e di Elisabetta Zaccolo un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.